Sì, WZ Crew, diglielo bia. Non c'è niente che mi possa fermare, sono pronto a disturbare ogni tua falsa morale. Questa va a voi, amici, nemici, chiunque cazzo voi siate. Ciò che ho dato ricevuto, ora ricevi questo messaggio che ho creato con un buon pretesto. Ascolta bene il testo e capirai più presto che non odio questo mondo, che non vivo nel mio mondo, che è diverso dal tuo mondo, uno schifo immondo. Vi polverizzeremo in un secondo, perché polvere tu sei e tale tornerai. Gli stronzi come voi non cambieranno mai. Sai che c'è? Cosa? Ma sai che c'è? Cosa? L'inferiorità è arrivata ad una stregua pietosa. Lo dico in rime pure in prosa. Per voi tabula rasa, con la coda attorcigliata e la pelle tutta rosa. In giro coi bambini, ma sai che ce ne fotte? Cambiate a pannolini, vi chiamo babysitter. Beviti un bitter, ma occhio alle fitte. Le vostre carcasse trainate da due motoslitte. Lo stile c'è tutto, sapete di che parlo. Un sogno nel cassetto, non potete mai trovarlo. Fanculo e rispetto, potete succhiarlo, l'hip hop. Cazzo non sapete farlo, tenetevi alla larga, porgeteci le terga, mettetevi a 90 e poi beccatevi sta purga. WZ, la crew che non s'aggrega, a sporchi giochi di un'ancor più sporca, congrega. Volete cantare con noi? Fin qui ci siamo, ma la vera tragedia sarà, do cazzo ve mettemo. Siete leader, sì, delle sonorità older. Se questo suona alieno, io sono Fox Mulder. Belli i vostri pezzi, tranne l'ultimo sgradito che alla WZ è riferito. Beh, l'ho capito, che dove state voi c'è sta un litigio che lo fate solo per dare colore al vostro mondo grigio. Ciccio, so bombe a mano ciò che lanci. Mi sembrano micette, ma i miei so ganci. Voi fate gaggi, sparlando coi neonati, ma tenetevi quel cazzo dei mixtape falliti. A little bit of this, a little bit of that. We gonna whoop your ass, baby, just like that. Se non è ben inteso, lo dico per inciso, copriti il viso che stavolta non è un malinteso. Offeso, pensi che non avrei motivo? Volevo dirti un'altra cosa prima del commiato. I testi li scriviamo assieme, come ci viene. E chi sostiene che se uno non li scrive può baciarmi il pene. Vengo dal quartiere, parlo come viene. È da vedere chi il cervello vostro detiene. Dentro le mani trattati peggio dei cani. Se cercate di fare un ragionamento, lecchini, di chi si è intrufolato nelle vostre vite. Udite udite, me ne strafotto di essere invitato a certe gite. Ma se ero amico vostro un posto credo che ci stava. Ma la dura verità è che non vi importa più una fava. Fate come cazzo ve pare, cominciate a bazzicare i cazzini che non ve se son mai inculati. Incapace, capirete do cazzo avrete sbagliato, stronzi. Sorpresa, ci sono anch'io su questa traccia. Uno più, uno meno, non credo vi dispiaccia. La nostra crew per voi sarà soltanto una minaccia. È finito il tempo della pena e della bambaccia. È giunto ormai il momento della cruda verità. Siete apprezzati solamente dalla Santa Trinità. Vendete il vostro disco chiedendo carità. Chi lo prende stai tranquillo, già lo sa come sarà. Aprilia si tinge di W e di Z. Ed è inutile leccare il culo quelli di Latina, che chissà quanto te prendono per culo signorina. Mentre voi li amate buttate soldi di benzina. Dite di essere veri B-boy, siete quelli che siete solo grazie a noi. I vestiti larghi poi li mettete solo sai, per nascondere la vostra immagine. Oi, poveri voi, ci missate su CD e poi dite non è vero. Comportamento strano, soprattutto per chi mi chiamava indiano, che prima lancia il sasso e poi nasconde la mano. Sono stufo di voi e della vostra mente, delle scuse per odiarmi, non siete brava gente. Ora sono un nemico senza aver fatto niente. State ne certi, ve ne pentirete amaramente.